Tangentopoli, di Tangentopoli io non ho affatto un giudizio positivo. Tangentopoli, vista retrospettivamente, è stata l'accordo fra un potere finanziario ormai non più interessato alla mediazione politica assicurata dai partiti come la DC o il PSI, per cui ormai costava pagare le tangenti e se si può risparmiare meglio ancora, e una magistratura che ha deciso di giocare un ruolo improprio di tipo bonapartista. Voi mi pare che abbiate studiato che cos'è il bonapartismo, no? Il ruolo guida di una qualche burocrazia che si impone. Di solito lo si riferisce sempre alla burocrazia militare. In questo caso abbiamo avuto un bonapartismo di tipo giudiziario. Una magistratura che ha giocato molto cinicamente il ruolo di grande normalizzatore, ma che in realtà non ha normalizzato niente. Dei 1.300 imputati di Tangentopoli, solo 300 sono stati condannati e di questi 300, 220 hanno patteggiato la pena e usufruendo di riduzioni di pena, di sconti vari e di condizionali, il carcere è stato conosciuto da non più di una quarantina di persone. Tangentopoli è stata in gran parte non la legalità che si impone, ma lo spettacolo della legalità che si impone e che conserva invece le vecchie pratiche corruttive di sempre. Abbiamo eliminato la tangente edilizia, quella sulle scuole, sui ponti, sulle strade, cioè chissà chi ha incassato la tangente per la costruzione di questa scuola, un giorno o l'altro. Abbiamo eliminato questa tangente, ma abbiamo istituito un'altra tangente, la tangente finanziaria, quella dei poteri pubblici, dalle commissioni parlamentari alla Banca d'Italia, alla Consob, eccetera, che permettono scandali finanziari enormi come il caso Parmalat. Com'è possibile che Tanzi abbia potuto fare le truffe che ha fatto se chi doveva controllare avesse controllato? Assolutamente no. Abbiamo fatto nascere la tangente finanziaria, che è ancora peggiore. Abbiamo fatto nascere un sistema politico ancora più bacato e soprattutto abbiamo una magistratura che tende a giocare un ruolo da democrazia protetta, ecco, non più dai militari ma dai giudici. Sento spesso parlare dell'indipendenza della magistratura come garanzia, e per carità, sono un convinto sostenitore dello Stato di diritto, quindi figurati, sono convinto. Però vedete, sì, d'accordo, è giusto che alle leggi siano assoggettate anche le più alte autorità dello Stato. Però guardate che quando questo discorso non si accompagna a degli atti concreti, corre il rischio di essere poco convincente. Insomma, come si fa a prendere sul serio una magistratura che da 14 anni chiede di essere difesa dal potere politico per poter giudicare e condannare il Presidente del Consiglio, ma da 14 anni io una sentenza non l'ho vista, una condanna non l'ho vista, e allora o le istruttorie sono fatte male o qui qualcuno ci sta giocando, non è possibile che in 14 anni non ci sia una pronuncia in un senso o nell'altro. Viene il dubbio che tutto questo sia semplicemente il pretesto, l'alibi, la giustificazione per un potere corporativo che sta semplicemente litigando con gli altri per assicurarsi una porzione di accesso al potere maggiore di quella che ha. No, non è un episodio che io ricordi positivamente, intanto perché si è accompagnato a una sostanziale involuzione della vita democratica del nostro paese con l'affermazione di sistemi elettorali e soprattutto con lo svuotamento della nostra Costituzione che si basava su garanzie che sono saltate. Ma soprattutto perché, prendo atto di una cosa, che gli eroici magistrati di mani pulite, gli eroi che hanno messo in carcere la corrotta classe politica che meritava di essere messa sotto processo e essere condannata, però poi andavano a discutere delle riforme da fare, mica al congresso dell'ARCI o della Caritas, no? E andavano a discutere ai convegni annuali a Cernobbio dell'Associazione Imprenditori, che non erano i corrotti, perché erano i corruttori. quindi tu da chi stai andando a confrontarti? Stai andando a confrontarti con una delle due parti del reato. Tu stai condannando i corrotti, ma ti stai mettendo d'accordo con i corruttori.